La cicogna, lunedì 28 marzo. Un mattino assai presto, le oche selvatiche che dormivano in piedi sul ghiaccio del lago Vomb furono svegliate da alte grida in cielo. Trirop, Trirop, Triannut la gru saluta H e le sue compagne e le informa che domani avrà luogo la grande danza delle gru sul monte Culla. H alzò subito il capo e rispose: salve, grazie, Le gru proseguirono il volo, ma le oche le udirono ancora per un pezzo lanciare il loro richiamo su campi e boschi. H e le sue compagne erano molto contente della notizia. «Sei davvero fortunato», dissero al papero bianco. «Figurati che puoi assistere alla grande danza delle gru». «È uno spettacolo davvero così eccezionale?» chiese il papero Morten. «È qualcosa che non ti sei mai neppure sognato», risposero quelle. Poi H aggiunse: «Bisogna pensare a come sistemare domani Pollicino perché non gli succeda niente di male durante la nostra assenza». E il Lucone: «Pollicino non resterà solo. Se le gru non permettono che assista alla loro danza, non ci andrò neppure io». «Ma nessun essere umano ha mai assistito all'assemblea degli animali sul Monte Culla», fece osservare H. «Non oso condurvelo». «Beh, comunque ne riparleremo dopo. Adesso dobbiamo procurarci da mangiare». H diede il segnale della partenza e anche questa volta condusse i suoi seguaci e le seguaci assai lontano a causa di smirre e la volpe. Le oche scesero soltanto quando furono sui prati acquitrinosi a sud di casa Gliminghe. Nils trascorse la giornata sulla riva di un piccolo stagno suonando uno zufolo di canna. Era di cattivo umore perché non lo volevano portare alla danza delle gru e non rivolgeva la parola né al papero né alle oche selvatiche. Come poteva far a convincere H a condurlo con loro? Un ragazzo che abbia rinunciato a divenire uomo per viaggiare con povere oche selvatiche non ha certo nessuna intenzione di tradirle. «Bisogna che dica loro quel che penso», borbottò tra sé, ma le ore passavano senza che vi si decidesse. La verità era che provava una sorta di rispetto nei confronti della vecchia oca grigia. Il prato paludoso dove le oche pascolavano era cintato da un lungo muro a secco. La sera, quando Nils rialzò il capo deciso a parlare ad H, lo sguardo gli cadde sul muro e gli sfuggì un grido di stupore. Le oche alzarono la testa a loro volta e guardarono nella stessa direzione. Nils aveva avuto l'impressione che le pietre grigie avessero zampe e corressero, ma poi si avvide che erano schiere di ratti che scivolavano lungo la cimasa a ranghi serrati ed erano tanti che per qualche istante il muro ne fu tutto coperto. Aveva sempre avuto paura dei ratti anche prima della sua metamorfosi e tanto più li temeva adesso che due sarebbero bastati ad avere ragione di lui. Brividi gli correvano lungo la schiena. Strano a dirsi, le oche parevano provare lo stesso suo orrore per i topi. Non rivolsero loro la parola e, spariti che furono, scossero le ali come per mondarle dal fango. «Topi grigi, cattivo segno», sentenziò Ixi. Nil pensò che era il momento buono per dire ad H che dovevano proprio lasciarlo venire con loro al Monte Culla, ma ne fu impedito dall'arrivo di un enorme uccello. A prima vista sembrava che avesse il corpo, il collo e la testa di una piccola oca bianca, ma le ali erano vastissime e nere, le zampe lunghe e rosse, il becco lungo, grosso, talmente grande per la piccola testa che gliela faceva pendere in giù, conferendogli un'aria melanconica e pensierosa. H rassettò in fretta le ali e andò incontro alla cicogna, inchinandosi più e più volte. Non si meravigliava di vederla già nella Scania. Di primavera i maschi arrivano presto ad assicurarsi che il vecchio nido non abbia sofferto durante l'inverno e solo dopo le femmine attraversano il Baltico. Si stupiva solo che fosse scesa tra le oche, perché le cicogne di solito frequentano solo uccelli della loro specie. «Spero che abbia trovato il nido in buono stato, signor Ermenrich», disse H. La cicogna parlava con vocina flebile e incerta e si lagnava di tutto. Il suo nido sul tetto di Gliminghe era stato assai danneggiato dalle tempeste invernali. Da giorni non si trovava niente da mangiare nella Scania. Gli uomini, prosciugando e coltivando le paludi, privavano le cicogne delle loro fonti di sostentamento e lui aveva intenzione di lasciare il paese per non tornarvi più. Ascoltando i piagnistei, H, che non trovava protezione da nessuna parte, pensava: stessi io bene come lei, caro signor Ermenreich, non mi lamenterei di certo. Lei è rimasto un uccello selvatico e libero, eppure è tanto rispettato dagli uomini che nessuno ardisce tirarle una fucilata e rubarle un uovo dal nido. Ma si tenne per sé quei pensieri, accontentandosi di commentare che non poteva credere che si abbandonasse una casa in cui la propria famiglia aveva abitato fin da quando era stata costruita. La cicogna chiese poi se le oche avessero visto i ratti grigi in marcia verso Glimminghe e raccontò loro dei topi neri e della loro lunga difesa del castello. Ma questa notte, soggiunse con un sospiro, Glimminghe cadrà in potere dei grigi. E perché proprio questa notte, signor Ermenrich? Volle sapere H. Perché i topi neri sono partiti ieri sera per il Monte Culla, persuasi che lo stesso avrebbero fatto anche tutti gli altri animali. Come vede, invece, i grigi sono rimasti e adesso si radunano per penetrare questa notte nel castello, difeso solo da pochi topi decrepiti che non hanno la forza di andare fino al Culla. Riusciranno nel loro intento e io che ho vissuto molti anni con i neri, non me la sento proprio di condividere la dimora con i nemici. H comprese allora che il signor Ermenrich era venuto a sfogarsi contro i topi grigi, ma secondo l'abitudine delle cicogne nulla aveva e avrebbe fatto per evitare il disastro. Gli chiese se avesse inviato un messaggio ai topi neri ed Ermenrich. No, a che scopo? Non avrebbero il tempo di ritornare prima che il castello sia preso. Non ne sono così certa, caro signor Ermenrich, ribatté H. Io conosco una vecchia oca selvatica che non chiede di meglio che di impedire una tale infamia. Ermenrich alzò il capo e guardò l'oca a becco aperto. La vecchia H non aveva né unghie né becco per combattere, senza contare che era un uccello diurno che di notte, volente o nolente, cedeva al sonno mentre i ratti compiono le loro scorrerie proprio con il favore delle tenebre, ma H era decisa ad aiutare i neri. Chiamò Ixi e le ordinò di guidare le oche al lago Vomb e siccome le altre protestavano, ribatté: obbedite, e sarà meglio per tutti. Io devo volare alla casa di pietra laggiù e se mi accompagnate gli abitanti della masseria ci vedrebbero e ci prenderebbero a fucilate. L'unico che verrà con me è Pollicino, potrà essermi utile perché ha vista acuta e la notte può restare sveglio. Nils era di cattivo umore e alle parole di H si raddrizzò per aprire più alto e avanzò le mani dietro la schiena, deciso a dire chiaro e tondo che non aveva intenzione di affrontare i ratti. Ma in quella la cicogna, che era rimasta a testa bassa, il becco sul collo, lo abbassò e lo spalancò, afferrò il ragazzino e lo lanciò a 2 o 3 metri d'altezza e ripeté ben 7 volte lo scherzetto, senza badare allo starnazzare delle oche che gridavano: «Ma che le prende, signor Ermenrich? Non vede che non è una rana, ma è un ragazzo?» Finalmente la cicogna lo posò a terra sano e salvo e poi disse: «Bene, torno a Glimminghe, mammacca. Chissà come saranno felici gli abitanti a sentire che un'oca selvatica e un marmocchio arrivano al loro soccorso». E allungò il collo, allargò le ali e volò via come una freccia. H aveva capito che Ermenrich si faceva beffe di lei, ma a poco le importava. Attese che Nils raccattasse gli zoccoli che la cicogna gli aveva fatto perdere, lo prese sul dorso e partì. Né Nils ebbe il coraggio di dirle che non voleva andare con lei, era furibondo nei confronti della cicogna, la quale evidentemente lo riteneva un buono a nulla. Pochi minuti dopo H si posò sul grande nido delle cicogne posto in su una ruota e formato da vari strati di rametti e zolle erbose. Siccome era vecchissimo, vi erano germogliati arboscelli e cespi e la signora cicogna, mentre era intenta a covare, poteva ammirare lontano il territorio della Scania e vicino le rose selvatiche e gli altri fiori che le crescevano intorno. H e Nils s'avvidero subito che c'era grande tensione nell'aria. Sul bordo del nido erano appollaiate 2 civette, un vecchio gatto grigio, una dozzina di vecchi topi neri dai denti prominenti e gli occhi lacrimosi. E di solito non capita di trovare animali così diversi intenti a una discussione pacifica. Nessuno di loro si voltò a salutare i nuovi arrivati. Non avevano occhi che per le lunghe file grigie che si vedevano brulicare sui campi resi spogli dall'inverno. I topi neri si rendevano conto di non essere in grado di difendere né la propria vita né il castello e apparivano disperati. Le due civette roteavano i grandi occhi, alzando di tanto in tanto il ciuffo di piume che avevano sul capo e riferendo con voce sinistra le crudeltà dei topi grigi. Erano costrette, precisarono, a lasciare Gliming perché quelli non risparmiavano né uova né piccoli. Il vecchio gatto tigrato, certo che i grigi l'avrebbero fatto a pezzi, se la prendeva con i neri. Che idea balorda vi è venuta di lasciare andare via i migliori guerrieri? È imperdonabile che vi siate fidati dei ratti grigi. Che cosa potevano replicare i ratti neri? La cicogna, invece, nonostante le sue preoccupazioni, non poté trattenersi dal dare la baia al gatto. Non temere, micione, non vedi che mamma H e Pollicino sono venuti a salvare il nostro castello? Abbi fiducia in loro, metteranno le cose a posto, puoi starne certo. Le due civette invece si mostrarono disposte a eseguire gli ordini. H spedì il marito alla ricerca dei ratti neri in marcia verso il Monte Culla per dir loro che dovevano tornare immediatamente, mentre la signora civetta venne spedita dalla strige Flammea che abitava nella cattedrale di Lund. Sarebbe stata l'attrice di un messaggio così segreto che H osò appena sussurrarlo a voce bassa all'orecchio dell'uccello notturno. L'incantatore di topi. Era quasi mezzanotte quando finalmente i topi grigi riuscirono a scoprire un pertugio lasciato aperto, una feritoia posta assai in alto, ma i topi salirono uno sulle spalle dell'altro e ben presto il più coraggioso riuscì a intrufolarsi nel castello ai piedi del quale tanti suoi antenati erano caduti. Rimase un momento immobile, aspettandosi un attacco, ma tutto taceva. Allora si fece animo e balzò nella cantina fredda e buia e dietro di lui un secondo, un terzo, un quarto ratto e via via tutti gli altri fino a coprire l'intero pavimento. Benché non fossero mai stati all'interno del castello, scoprirono senza difficoltà i passaggi per i quali i neri salivano ai piani superiori. Ma prima di imboccarli, tesero l'orecchio. L'assenza dei neri li preoccupava più di uno scontro aperto e tanta fortuna riusciva, beh, sospetta. Giunsero senza intoppi al primo piano, che era pieno di frumento, e tuttavia non persero tempo a godersi la vittoria. Frugarono con prudenza in ogni angolo e, non trovando traccia di nemici, continuarono a procedere sempre con mille precauzioni. Visitarono la grande cucina, ma anche là non si vedevano ratti neri. E sebbene fossero attirati dal profumo del grano, col massimo ordine ispezionarono la sala di guardia con le grandi colonne, il tavolone di pietra e le posterle dalle quali in tempi antichi si versava il piombo fuso sui nemici. Dei topi neri ancora nessuna traccia. I grigi salirono al terzo piano, dove era la grande sala del castellano, altrettanto fredda e nuda degli altri locali, e poi al quarto piano, composto da un'unica vasta sala vuota. Il luogo che non esplorarono fu il nido sul tetto, dove in quel momento Madama Civetta destava H per comunicarle che la strige Flammea aveva aderito alla sua richiesta. Ed ecco lì l'oggetto desiderato. Perquisito coscienziosamente tutto il castello, i ratti grigi si sentirono tranquilli. Sì, i neri se ne erano proprio andati, rinunciando alla resistenza, e i grigi si precipitarono gioiosamente sul mucchio di frumento, ma avevano appena inghiottito qualche chicco che nel cortile si fecero udire le note di un piffero. I ratti alzarono la testa, ascoltarono inquieti, fecero qualche passo come per andarsene, ma poi tornarono a rosicchiare. Di nuovo le stesse note acute e penetranti. E allora accadde qualcosa di straordinario. Uno, due, tre, l'intera moltitudine dei ratti lasciò il banchetto e si precipitò per la strada più breve in cantina, affollandosi per uscire dal castello. Molti erano rimasti indietro, memori delle fatiche sostenute nella conquista. Non volevano ancora andarsene. Ma altre note risuonarono. E questa volta dovettero obbedire. In fretta e furia Urtandosi a vicenda, si lanciarono per gli angusti passaggi nei muri. In mezzo al cortile, un ometto alto un palmo soffiava nel piffero. Attorno aveva una cerchia di ratti che lo ascoltavano incantati e a ogni istante nuove schiere si aggiungevano alle precedenti. Per un attimo il nanetto osò staccare il piffero dalle labbra per fare marameo ai ratti e quelli parvero lì lì per gettarglisi addosso e divorarlo, ma poi riprese a suonare e i topi lì immoti in suo potere. Quando tutti i ratti grigi furono usciti dal castello di Gliminge, il piccoletto si incamminò lento lungo la strada e quelli dietro. Le note del piffero erano così dolci alle loro orecchie che non pensavano neppure di resistere. E così Nils se li tirò tutti dietro in direzione di Velby, attraverso siepi e fossati, sempre suonando il piffero che si sarebbe detto fatto con il corno di un animale, ma così piccolo che nessuna bestia, ai giorni nostri, ne è più munita. Chi poteva dire quando e come fosse stato fabbricato quello strumento? La strige flammea l'aveva trovato in una nicchia della cattedrale di Lund, l'aveva mostrato a Bataki il corvo e tutte e due si erano convinti che fosse uno di quei corni di cui ci si serviva un tempo per avere ragione di ratti e sorci. Il corvo era grande amico di Akka, e da lui Loka aveva saputo che Flammea ne era in possesso. Ed è certo che i ratti non potevano resistere al suo fascino. Nils zufolò tutta la notte, durante le ore antelucane e mentre il sole si levava. E dietro la folla dei ratti, sempre più lontana dai vasti granai di Gliminge. La grande danza delle gru sul Monte Culla, martedì 29 marzo. Il Monte Culla è basso, lungo, niente affatto imponente. Sulla sua ampia sommità si stendono campi, boschi, praterie, qua e là interrotte da dossi coperti di erica e da rocce nude. Niente di particolare a prima vista, insomma, ma chi si allontani dalla pista che porta alla sommità scopre, lungo le erte pendici, una quantità di cose curiose. Tanto per cominciare, il Monte Culla non posa sulla terra, non è circondato da pianure e vallate, ma si protende per lungo tratto nel mare e niente lo ripara dalle onde che ne flagellano la base, la scavano, la plasmano al loro piacimento. Ci sono poi i precipizi intagliati nelle scogliere, picchi neri puliti dalla sferza incessante del vento. Ci sono caverne che penetrano nei fianchi della montagna, balze sporgenti, pilastri solitari che si levano diritti al cielo, cunicoli oscuri dall'entrata angusta, piccoli promontori e minuscole baie, marmitte dei giganti scavate nella roccia, serracchi che invitano i viandanti a scendere negli abissi della montagna fino alla caverna dell'ognomo di Culla. Le meravigliose muraglie, ai piedi delle quali si spalanca il mare, vasto e azzurro, e l'aria limpida e luminosa al di sopra, hanno reso il Monte Culla così caro agli uomini che questi, per tutta l'estate, vi giungono in folla. Più difficile sarebbe dire che cosa attiri gli animali. Certo è, però, che tutti gli anni questi vi si radunano per un grande, gioioso ritrovo, una costumanza che risale a tempi immemorabili e di cui ormai si è dimenticato il perché. Cervi, caprioli, lepri, volpi e gli altri quadrupedi dei boschi, quando il raduno deve avere luogo, si mettono in marcia a nottetempo per non farsi vedere dagli uomini. Poco prima che il sole si levi, si raccolgono sulla spianata a sinistra della pista, non lungi dalla punta estrema della penisola. La spianata è circondata da ogni parte da rocce lisce e la si scopre solo giungendovi vicinissimi. Ma nel mese di marzo è quasi impossibile che vi capitino dei viandanti. Gli stranieri ne sono tenuti lontani dalle tempeste invernali, il guardiano del faro sul promontorio, la vecchia signora che vive a Kullagord, il massaro di Cullen e i suoi percorrono i sentieri battuti senza avventurarsi nelle lande deserte. Arrivati al luogo della festa, gli animali prendono posto tra i roccioni, ciascuna specie per conto suo, sebbene durante la solennità regni la pace, al punto che una lepre potrebbe attraversare la zona delle volpi senza rischiare di perdere neppure la punta di un orecchio. Ma la costumanza vuole che si formino gruppi distinti e quando tutti si sono accomodati, si comincia ad attendere l'arrivo degli uccelli. Il tempo è sempre bello quel giorno. Le gru sono abilissime nelle previsioni meteorologiche e non convocherebbero di sicuro gli altri animali se ci fosse rischio di pioggia. L'aria è limpida, senza la minima foschia, e tuttavia i quadrupedi non vedono arrivare gli uccelli. Strano, perché il sole è ormai sorto. I volatili dovrebbero già essere per via. Si scorgono solo piccole nuvole nere che passano sopra la piana. Oh, ma ecco che una di esse si dirige verso il Monte Culla, seguendo la costa del Sund, e giunta sopra lo spiazzo della festa si ferma, ed un tratto la nube intera è tutta canti, trilli, musica, e poi tutta insieme s'abbatte sulla collina, che di colpo scompare, nascosta da lodole grigie, fringuelli rossi, grigi e bianchi, stornelli screziati, cince allegre verdi e gialle. Subito dopo, ecco una bruma leggera che veleggia sulla piana, indugiando sopra ogni fattoria, capanna, castello, villaggio, e continuamente crescendo, come se aspirasse da terra colonne turbinanti di polvere grigia, e quando giunge sopra il monte è divenuta una nube compatta e sembra che la pioggia di passeri che ne scende non finisca mai. Ma adesso è in arrivo la più grande delle nuvole di uccelli. Questi sono giunti dai quattro punti cardinali e la nube è color blu scuro. Nessun raggio di sole riesce a forarla e avanza cupa e terrificante come un nembo d'uragano, echeggiante di strida infernali, di risate beffarde, di sinistri gracchii, e giù piomba una pioggia palpitante di corvi e cornacchie. Poi nel cielo compaiono mille figure e forme geometriche. Sono gli uccelli dei boschi venuti dallo Småland, sono gli uccelli acquatici che vivono sull'isola di McLappen davanti a Falsterbo e che risalgono lungo il Sund, raggruppati in triangoli e lunghe lance, croci oblique e semicerchi. L'anno in cui Nils compì il suo viaggio con le oche selvatiche, Aka e le sue compagne arrivarono dopo tutti gli altri. Avevano dovuto attraversare l'intera Scania per arrivare al Culla e inoltre avevano dovuto andare a cercare il ragazzo che da ore e ore camminava in testa alla folla di ratti grigi portandoli lontano da Glimminge. Finalmente il signor Civetta era giunto ad avvertire che i ratti neri erano tornati e il piffero di Flammea aveva potuto smettere di suonare. Ma non fu H a scendere come una freccia, afferrare Nils con il becco e portarselo in aria, bensì il signor Ermerich, la cicogna, il quale depose Nils nel proprio nido e gli chiese scusa di averlo trattato con sussiego la sera prima. Il ragazzo fu ben lieto di perdonarlo e i due divennero subito amici. Ma più felice ancora fu Nils quando seppe che H aveva consentito, in segno di riconoscenza, a farlo assistere alla festa sul Monte Culla. E siccome ieri sera ti ho trattato molto male, ti prenderò io sul dorso e ti porterò al raduno, disse il signor Ermerich. Per Nils fu un viaggio da vertigini, perché Ermerich era un vero virtuoso del volo e andava ben più veloce delle oche selvatiche. E mentre H procedeva in linea retta con colpi d'ala regolari, Ermerich si dedicava a ogni sorta di acrobazie. A volte restava quasi immobile ad altezze incredibili, librandosi nell'aria senza un battito d'ali. Altri invece si precipitava verso terra come un sasso e poi si divertiva a turbinare attorno ad H in cerchi sempre più stretti. Il ragazzo, attaccato al collo della cicogna, non aveva mai visto nulla di simile e, nonostante lo spavento provato, dovette ammettere che era stato davvero un bel volo. Al lago Vomb le compagne di H si unirono a loro e insieme proseguirono per il Culla, andando a posarsi sul poggio di spettanza delle oche. Nils si guardò attorno e vide qua spuntare i palchi dei cervi, là i ciuffi grigi degli aironi, e un'altura era rossa di volpi, un'altra bianca di uccelli marini, una terza grigia di sorci e ratti. Una era coperta di corvi neri che non cessavano di gracchiare. Un'altra ancora dalle allodole che, incapaci di starsene tranquille, di continuo s'alzavano cantando allegre a mezz'aria. Secondo l'usanza, le cornacchie diedero il via ai giochi con una danza aerea, Si divisero in due schiere, volando l'una verso l'altra per scontrarsi, fondersi, separarsi e ricominciare da capo. Allo spettatore che non fosse al corrente delle regole sarebbe parso un esercizio monotono. Le cornacchie erano fiere della loro esibizione, ma gli altri tirarono un sospiro di sollievo quando fu finita. Non ci fu molto da attendere. Toccò alle lepri, avanzanti in lunga fila, senza molto ordine ma con slancio, per poi rizzarsi tutte sulle zampe posteriori e prendere a correre a tale velocità che le lunghe orecchie sbattevano a destra e a sinistra e durante la galoppata piroettavano, facevano lunghi salti, si battevano le zampe anteriori sul petto per farlo risuonare. Una faceva la trottola in bilico su una zampa sola, altre marciavano sulle anteriori. Non c'era regola nell'esibizione, ma in compenso un gran brio. L'inverno era finito, rinasceva la gioia di vivere, questo proclamavano con la loro sarabanda le lepri. Fu poi la volta dei grandi uccelli di bosco. Un centinaio di galli cedroni dal nero piumaggio iridescente e dalle sopracciglia scarlatte. Si posarono su un'enorme quercia in mezzo alla spianata. Quello che s'era appollaiato sul ramo più alto abbassò le ali, esibì la coda, allungò il collo, lo gonfiò e prese a chiocciare. Chiec, chiec, chiec. Poi chiuse gli occhi e sussurrò. Sì, sentite come canto bene. E cadde in preda a una tale estasi da dimenticarsi di tutto quanto lo circondava. E ramo per ramo, tutti i galli cedroni presero a imitarlo, rapiti dalla stessa estasi che si propagava a ogni altro animale presente. «Sì, è tornata la primavera!» si dicevano l'un l'altro. «Il freddo dell'inverno è finito! Il fuoco del rinnovamento arde sulla terra!» Visto il successo dei galli cedroni, i fagiani di montagna non seppero più frenarsi. E siccome non c'erano altri alberi su cui posarsi, si lanciarono sullo spiazzo, dove l'erica era così alta da lasciarne scorgere solo le penne ricurve della coda, cantando «Or! Or! Or!». Mentre i fagiani gareggiavano con i galli cedroni, accadde qualcosa di inaudito. Approfittando del fatto che l'attenzione degli animali presenti era monopolizzato da galli e fagiani, una volpe cominciò a strisciare verso il gruppo delle oche selvatiche. Avanzava guardinga ed era giunta quasi a tiro, quando un'oca la scoprì e prese a gridare «Allerta! Oche selvatiche, allerta!». La volpe le si lanciò addosso azzannandola al collo per farla tacere, ma le altre, che avevano udito il grido d'allarme, scattarono in aria e gli altri animali scorsero sulla collina abbandonata dalle oche Smirre, il volpone, con un uccello morto tra le zanne. Smirre aveva rotto la tregua del giorno di festa e fu condannato a una punizione così severa da doversi pentire per tutta la vita di non aver saputo resistere al desiderio di vendicarsi di Acca e delle sue compagne. Una folla di volpi lo circondò e seduta stante lo condannò all'esilio, secondo le loro antiche costumanze. Nessuna volpe prese la parola in difesa di Smirre, ben sapendo che chi l'avesse fatto sarebbe stata a sua volta esiliata. Unanime fu dunque la sentenza. Da quel giorno a Smirre era vietato di morare nella contrada della Scania. Doveva abbandonare la moglie e i parenti, i territori di caccia e le tane, i rifugi e i nascondigli che l'avevano tante volte salvato per cercare fortuna altrove. E perché tutte le volpi sapessero che Smirre era stato bandito, la più anziana con un morso gli staccò la punta dell'orecchio destro. Assettate di sangue, le giovani volpi presero a uggiolare e balzarono addosso a Smirre, al quale non restò che fuggire a precipizio lungo i pendii del culla. Galli cedroni e fagiani avevano continuato imperterriti la loro esibizione, talmente assorti nel canto da non udire null'altro. Finito che ebbero, scesero in campo i cervi di Heikenberga, che duellarono scontrandosi con le corna ramose, e gli spettatori si sentirono tutti coraggiosi e forti, pieni del vigore della primavera. Infine i cervi cessarono il combattimento e si propagò un mormorio. «Arrivano le gru! Arrivano le gru!» E comparvero gli uccelli grigi vestiti di crepuscolo, dalle ali ornate di lunghe piume fluttuanti, rossi ciuffi sulla testa, le lunghe gambe, i sottili colli sinuosi. Scesero la china come se scivolassero in preda a una vertigine misteriosa. Calando, volteggiavano su se stessi, mezzo volando, mezzo danzando. Sollevavano le ali, si muovevano con incredibile rapidità. Pareva che avessero imparato la loro danza dalla nebbia che aleggia sugli stagni deserti. Ed era come assistere a un sortilegio, e quanti erano venuti per la prima volta al culla compresero perché il raduno era chiamato danza delle gru. In essa v'era sì alcunché di selvaggio, ma lo spettatore in pari tempo era colto da un dolce languore. Nessuno pensava più a lottare, ma tutti, avessero le ali o meno, aspiravano a levarsi sopra le nuvole, a cercare ciò che sta al di là, abbandonando i corpi grevi che incatenano al suolo. E questa nostalgia dell'inaccessibile, di ciò che è celato al di là della vita, gli animali l'avvertono solo quando assistono alla danza delle gru.